io divento fastidioso. Vorrei portarti in un posto meraviglioso, ma il grigio che ho attorno è troppo contagioso. Mi confondo fra la folla che nasconde volti mesti, ripeto meccanicamente sempre gli stessi gesti. Ho tanti obiettivi imposti, sono sempre in agitazione, però mi rendo conto di non avere una destinazione. Colmo il vuoto di nulla per non pensare, ma non aiuta a dimenticare ciò che continua a mancare. Non vedo più niente fra questa nebbia che sale, anche oggi mi sono perso e inizio a stare male. Non vedo e non sento, ma continuo ad andare, e dietro questa curva non so cosa potrò trovare. Dietro sono impazienti e sicuri, mi vogliono superare, ma in questo momento mi vorrei fermare. Metto la sveglia molto presto, parto dalla mia abitazione, c'è traffico per strada verso nessuna direzione, c'è la fila e non ho nessuna agevolazione per andare verso nessuna direzione. In uno stato di continua alienazione corro veloce verso nessuna direzione, eseguo ordini senza fare un'obiezione, programmato per andare verso nessuna direzione. Ho imparato anche a memoria questo copione che mi condurrà verso nessuna direzione, ma per un attimo vedo il cielo, voglio fermarmi, sento il bisogno di scollegarmi. Ci sono tante strade ma solo una è concessa, oggi avrei voluto prendere quella più sconnessa, ma sono in ritardo e ti vorrei parlare, ma non è il momento in cui è concesso ascoltare. Devo dimostrare di essere sempre forte, chiudere bene a chiave tutte le porte, perché le insicurezze possono farmi sbagliare, le debolezze mi possono anche ammazzare. Indossa l'espressione più sicura che hai e prenditi in faccia tutti i tuoi guai. Ma io ora vorrei essere con te su una spiaggia deserta, invece sono al telefono a vendere l'ennesima offerta. È solo un po' di inquietudine, ne sono convinto, è l'abitudine che ormai ha vinto, è la solitudine in questo mondo finto, è la consuetudine in questo fottuto labirinto. Passo la giornata a fare gli interessi di un padrone, mi dirigo verso nessuna direzione, se arrivo tardi avrò un'ammonizione per non essere arrivato in nessuna direzione. Non ho mai vinto, non sono mai stato un campione, mi fermavo prima di arrivare in nessuna direzione. Non socializzo con le altre persone in viaggio con me verso nessuna direzione, mi gira la testa su questo stradone, mi sono perso all'altezza di nessuna direzione. Al mondo però ci sono tante cose belle, questa notte non dormo, voglio guardare le stelle. Il fatto è che ogni tanto mi sento uno straccio, avrei tanto bisogno di un tuo abbraccio, ma il tempo inesorabilmente sta passando, mi rendo conto di quanto ne sto sprecando. Per ogni desiderio bisogna chiedere il permesso, vedo che tutti inseguono solo il successo, ma porto dentro tutto me, tutto quello che è stato, volti, nomi, situazioni, ciò che mi ha segnato. In ogni caso sono sempre impreparato, ho avuto tempo ma non ho studiato, sono sempre stato un po' ammalato, costretto a vivere con il cuore spezzato. Vorrei che fossi vicino a me ogni volta in cui ti penso, sono sicuro che così tutto avrebbe un senso. Se chiudo gli occhi guarisco da ogni dolore, perché sento le tue mani che mi danno calore. E non mi importa se anche oggi ho perso il treno alla stazione, aspetto il prossimo con te verso nessuna direzione. E i sogni sono finiti, ho perso anche l'ultima occasione, e sei con me sono felice, nessuna direzione. Non ho i soldi per pagare la cauzione, per fuggire e andare verso nessuna direzione. Vivo bene anche fra questa confusione, se la mia certezza anche in nessuna direzione. Provo anche una consolazione ogni volta che perdo la direzione. E ora per favore, tu che sai insegnare, fammi vedere come si fa a volare. Non ci sarà più disillusione se sarai con me in nessuna direzione. curerai ogni mia esitazione, ad ogni incrocio verso nessuna direzione calmerai ogni mia fibrillazione, ad ogni incidente verso nessuna direzione consolerai ogni mia illusione, ad ogni tentazione verso nessuna direzione. Ma anche oggi bisogna ancora aspettare, anche oggi mi perderò a sognare. Nessuna direzione, sclero 2016.